cancella, sole basso all'orizzonte, viaggio nello spazio, lost on you, ce l'ho di fronte. Immagini, flashback a ripetizione, è un continuo, non c'è tregua, sale forte l'emozione. Il tuo viso, il tuo sguardo, occhi verde smeraldo, strappati alla vita, troppo prima del tempo. Dove sei? Non ci sei, però so che ci sei, e chissà se c'eri ancora, se era tutto ok. Penso spesso a che potevi avere una famiglia, e qualche ruga in più sarebbe stato certo meglio, ma il destino ha voluto portarti via. Il sole scende ancora, ma tu fai compagnia. Sono successe tante cose, mi sono anche sposato. Sarebbe stato giusto che anche tu lo fossi stato. Una lacrima si ferma lì sul cornicione. Mi asciugo, resisto, farebbe troppo male. L'ultima partita di pallone fatta insieme, l'ultimo discorso fatto insieme poco prima, la trasformazione da bambino a maturo. Saresti stato, son sicuro, un buon padre. Qua giù ti vogliamo ancora tutti bene. Manchi tanto, manchi sempre ed è ancora stretta al cuore. Chissà, forse un giorno ci rivedremo. Per ora l'importante è che ti vada tutto bene, ovunque sei.